Capitolo 5. Malinalli e Cortés entrarono nel temascal completamente nudi. Era strano vedere il capitano degli spagnoli spogliato di abiti e apparenze. Sembrava più piccolo, vulnerabile. La nudità era una condizione indispensabile per realizzare quel rito di purificazione e rinascita, perché se si vuole ripulire il sangue, bisogna che tutti i pori della pelle possano aprirsi, espandersi. Solo così il vapore, altra forma dell'acqua, suo spirito, può purificare il corpo in quattro fasi che corrispondono ai quattro punti cardinali, alle quattro stagioni e ai quattro elementi. Era la prima volta che Cortés si accostava a quella pratica sacra e aveva accettato di farlo solo perché gliel'aveva chiesto Malinalli. Convinta che gli dèi restituiscono all'uomo la coscienza di sé, materializzandone la sostanza nell'acqua, lei gli aveva proposto di rilassarsi un po' nel temascal, prima di intraprendere qualsiasi azione contro gli abitanti di Cholula. Dapprima Cortés si era decisamente rifiutato, anzi, quella proposta gli era sembrata sospetta. Che razza d'idea! Andare a ficcarsi in un piccolo vano circolare con una sola via d'uscita ed entrata, e per giunta nudi e senza armi. L'aria che si respirava a Cholula non era certo tale da ispirare fiducia. Fino a quel momento i reggenti della città si erano rifiutati di riceverlo. Cholula aveva un sovrano temporale, Tlaquiac, signore del qui e dell'adesso, e un capo spirituale, Tlachac, signore del mondo sotterraneo, che vivevano in casa annessa al tempio di Quetzalcoatl. La gente di Cholula parlava Nahuatl, la lingua dell'impero, ed era sottomessa ai Mexica, ai quali pagava un tributo. Eppure la città era una signoria indipendente e, come Tlaxcala, aveva una forma di governo che prevedeva la presenza contemporanea di più sovrani. Era gente orgogliosa, incapace di immaginare che in talune circostanze il suo dio, Quetzalcoatl, avrebbe potuto non essere in grado di difenderla, e proprio per questo non aveva paura degli stranieri. I Cholultechi avevano piena fiducia nel loro divino protettore. Cortés e i suoi erano arrivati a Cholula mentre marciavano su Tenochtitlan insieme ai loro alleati. I Totonachi di Cempoala e gli Chalcaltechi, dopo aver percorso i 40 chilometri fra Chacala e Cholula. La popolazione locale li aveva accolti e nutriti, ma si era rifiutata di fare altrettanto per i Totonachi e i Chalcaltechi, che avevano dovuto accamparsi fuori città. Solo qualche centinaio di loro aveva ottenuto il permesso di entrare a Cholula con gli spagnoli, portando l'artiglieria e il resto dell'equipaggiamento. I Cholultechi, infatti, nemici giurati degli abitanti di Chalcala, non li avrebbero lasciati entrare per nessuna ragione, e men che meno armati. Cortés era rimasto colpito dalla grandezza e dalla bellezza di Cholula, che era una città prospera e popolosa. Dai molti templi si capiva che era uno dei principali centri religiosi del Nuovo Mondo. Il più importante era il tempio di Tzeltalcoa, ma la città vantava anche la piramide più alta di tutto il Messico, composta da ben 120 gradini. Oltre a questo tempio principale, Cortés aveva contato più di 430 torri, cioè piramidi, che lui chiamava moschee. Cholula aveva quasi 200.000 abitanti e circa 50.000 case. Era la città più importante che gli spagnoli avessero incontrato nel lungo viaggio dalla costa all'interno del paese. Una delle sue attrattive principali era l'immenso mercato specializzato in realizzazioni d'arte piumaria, vasellame di terracotta e pietre preziose. 3 giorni dopo l'arrivo degli spagnoli, comunque, gli abitanti di Cholula avevano addosso una presunta carenza di approvvigionamenti e avevano interrotto qualsiasi rifornimento di generi alimentari, limitandosi a dare loro acqua e legna da ardere, e Cortés aveva dovuto chiedere ai Chalcaltechi di rimediargli qualcosa da mangiare per i suoi uomini. In città si respiravano sospetti e nervosismo. I Chalcaltechi avevano detto a Cortés che in tutta la regione circostante si stavano verificando movimenti di truppe messicane. Probabilmente si stava preparando un'imboscata alla quale avrebbero partecipato anche i Cholcultechi. In quel clima denso di intrighi, dunque, Cortés doveva prendere una decisione. Con Totonachi e Chalcaltechi si era scontrato e aveva vinto. Quei popoli ormai erano passati dalla sua parte. Ora bisognava portare avanti il progetto della conquista. Doveva assolutamente arrivare a Tenochtitlan. Nessuno poteva fermarlo e quella che stava per prendere poteva rivelarsi una decisione cruciale per i suoi piani. Cortés non si riteneva un semplice soldato, bensì l'emissario e rappresentante del re di Spagna, Quindi l'imboscata che si stava preparando contro di lui per estensione era diretta anche contro Sua Maestà. Cortés dunque avrebbe agito in nome e per conto della corona, difendendola con la massima fermezza e punendo con la morte qualsiasi tradimento. Stando così le cose, era comprensibile che Cortés non fosse particolarmente ansioso di fare il bagno di vapore nel Temascal. La necessità di attaccare prima di essere attaccato a sua volta lo preoccupava molto e non era nello stato d'animo adatto per partecipare ad antichi riti pagani. Eppure, inaspettatamente, Cortés, che non faceva un passo senza la sua scorta armata, aveva accettato di entrare nel Temascal, pur sapendo che in questo modo si sarebbe messo in trappola con le sue stesse mani. Vi si era risolto perché Malinalli gli aveva raccontato che molti anni prima i Toltechi, soppiantando gli Olmechi, antichi abitatori di Cholula, vi avevano stabilito il culto di Quetzalcoatl, divinità corrispondente a Venere, la stella del mattino, quella che accompagna sempre il sole nel suo tragitto. Dapprima Quetzalcoatl era stato un uomo e solo in seguito si era trasformato in dio, un dio che non aveva bisogno di sacrifici umani, che non li richiedeva, che si limitava ad accendere con il suo bastone il vecchio sole per farlo sorgere di nuovo, rinnovato, senza bisogno di uccidere nessuno. Gli Aztechi, invece, sì, che ne avevano fatti di sacrifici umani dopo aver conquistato Tula, e così facendo avevano tradito i principi fondamentali della religione di Quetzalcoatl. Per questo gli Aztechi temevano tanto il ritorno del dio, perché si sentivano in colpa e avevano paura del castigo. Sempre nel Temascal, spogliato di tutti i tuoi abiti e ornamenti, di tutti i tuoi metalli, di tutte le tue paure, e ti siedi sulla madre terra accanto all'acqua e al fuoco, anche tu potrai rinnovarti, rinascere, elevarti, navigare nel vento come Quetzalcoatl, lasciando da parte la tua vecchia pelle, il tuo rivestimento umano. Anche tu potrai trasformarti in Dio, perché lascia che te lo dica una volta per tutte: solo un Dio potrà sconfiggere i Mexica. E così tutti i dubbi di Cortés erano svaniti. Egli avvertiva la grande spiritualità del popolo indigeno. E il suo istinto guerriero gli diceva che quella era la cosa giusta da fare. Se fosse riuscito a mostrarsi a quella gente, nei panni di Quetzalcoatl, nessuno potere umano avrebbe potuto sconfiggerlo. Ad ogni modo, per maggiore sicurezza, aveva messo due dei suoi capitani di guardia all'entrata del Temascal e aveva ordinato ai soldati di circondare l'area. Dentro al Temascal regnava un'atmosfera stranissima. Nella penombra i visi di Cortés e di Malinalli erano semplici contorni disegnati dalla fievole luce che attraverso l'unico orifizio penetrava in quel ventre di pietra, un piccolo spazio completamente invaso dal vapore caldo. Malinalli sperava che il rito avrebbe permesso a Cortés di entrare in contatto con la natura, l'unica che sappia intrecciare l'intelligenza dell'invisibile e favorire lo scambio tra seme e albero, fra frutto e palato, tra corteccia e terriccio, fra pietra e fuoco, tra sperma e pensiero, tra pensiero e stelle, tra stelle e pori della pelle, e tra questi ultimi è la saliva che pronuncia le parole che fanno espandere l'universo. Ma i suoi buoni propositi rischiavano di naufragare, perché ben presto buie nudità risvegliarono in loro un'eccitazione intensa che non avevano mai provato prima. Malinalli era turbata dalla presenza di quell'uomo che non apparteneva al suo mondo o alla sua razza, ma che ormai faceva parte del suo passato. La sua memoria si risvegliò e i ricordi le trafissero i pensieri come spille, rinnovando il dolore che il giorno prima aveva provato tra le braccia di Cortés. Il corpo le doleva ancora, eppure sentiva un turgore, un ardore, l'urgente necessità di essere abbracciata, toccata, baciata di nuovo. Cortés invece avvertiva ancora sulle labbra la piacevole sensazione di leccare e succhiare i capezzoli di Malinalli e provava un desiderio irrefrenabile di bere il sudore che vedeva scorrere da quei capezzoli. Ma nessuno dei due tradusse in atto ciò che aveva per la testa. Rimasero entrambi immobili, in assoluto silenzio. L'ambiente si caricò di elettricità. Cortés e Malinalli non si guardavano nemmeno. Lui aveva scelto di sedersi di fronte all'apertura del Temascal, con le spalle protette dalla parete, in modo da poter controllare l'eventuale comparsa di un nemico. Anche Malinalli, seduta di fronte a lui, cercava a suo modo protezione, abbracciandosi le ginocchia per chiudere l'entrata del suo corpo e proteggere la sua parte più sensibile dagli sguardi e dalle mani di Cortés. In quel piccolo spazio, Cortés si sentiva come catapultato in un altro tempo e per un po' dimenticò la sua insaziabile sete di conquista, la sua irrefrenabile ansia di potere. In quel momento desiderava solo affondare tra le gambe di Malinalli, annegare nell'oceano del suo ventre e zittire per qualche tempo la mente. Quel desiderio sconfinato, l'urgente necessità di fondersi in Malinalli, lo spaventava perché avvertiva chiaramente il rischio di perdere il controllo di sé se si fosse donato interamente a un'altra persona. Temeva di perdersi in lei, dimenticando lo scopo primario della sua vita. E così, invece di possederla, decise di rompere quello scomodo silenzio. Perché qui nel tuo paese ci sono tante sculture di serpenti? Rappresentano tutte il dio Quetzalcoatl. A Cholula, infatti, Cortés aveva visto molti serpenti di pietra che lo terrorizzavano e fascinavano a un tempo. Sì, rispose Malinalli. Non aveva voglia di parlare, avrebbe preferito tacere, voleva che anche Cortés facesse altrettanto. Le piaceva guardarlo mentre non parlava, quando teneva la bocca chiusa, quando non si esprimeva verbalmente. Malinalli poteva immaginare che il fiore e il canto gli invadessero i pensieri. Quando parlava, invece, le sue parole erano sempre in contrasto con ciò che pensava lei, con i suoi desideri e i suoi sogni. Cortés però non era a suo agio nel silenzio e non sapeva cosa fare in quell'ambiente così quieto. Riusciva solo a pensare che aveva voglia di gettarsi su Malinalli e possederla, anche se il caldo intenso non favoriva il movimento. Quindi insistette. Ma questa Quetzalcoatl di cui parli sempre, che dio è? Perché devi sapere che i nostri progenitori furono cacciati dal paradiso terrestre per colpa di un serpente. Non so di quale serpente parli. Il nostro rappresenta l'unione di Quetzal, uccello, volo, piuma, e Coal, serpente. Quetzalcoatl significa serpente piumato. Anche l'unione di acqua piovana e acqua della terra è Quetzalcoatl. Il serpente rappresenta i fiumi, l'uccello richiama la nube. Un uccello serpente, un volatile che striscia, ecco cos'è Quetzalcoatl. Anche il cielo sotto e la terra sopra è Quetzalcoatl. All'improvviso, chissà perché, o quando, o come, l'oscurità del ventre di pietra del Temascal si riempì di una luce che sembrava emanare dal nome stesso di Quetzalcoatl. Cortés, che non sapeva niente delle credenze religiose indigene, udendo per la prima volta dalle labbra di Malinalli quelle spiegazioni sulla natura del suo dio, pensò che erano immagini eleganti e maestose, e la sua mente arrivò a concepire una verità inconciliabile. L'unione di ciò che vola e di ciò che striscia. Malinalli e Cortés si guardarono finalmente negli occhi. Era calato il silenzio. Lo sguardo dell'uno penetrò in quello dell'altra e, avvolti nello spazio intimo e raccolto del Temascal, ebbero entrambi l'impressione di avere già vissuto quel momento in un altro punto del tempo. Avvertendo un brivido nel centro esatto della pupilla, Cortés dovette distogliere lo sguardo dagli infiniti occhi neri di Malinalli, in cui si leggevano tristezza, amore e un vago desiderio di vendetta. E Cortés domandò ancora: «Ma dimmi, cosa ha fatto di buono questo serpente piumato per diventare una divinità tanto importante? Perché dal modo terribile in cui viene raffigurato a me sembra più un demone che un dio». Malinalli, consapevole che l'unico modo per costringere Cortés al silenzio era quello di non lasciarlo parlare, lo interruppe e rispose con voce appassionata. In principio gli uomini erano dispersi per tutto l'universo. Tutti noi non eravamo altro che polvere fluttuante, là dove il vento è niente, dove l'acqua è niente, dove il fuoco è niente, dove la terra è niente, dove l'uomo disperso è niente, dove niente è niente. Questa calcò, ci radunò e ci formò. Fu lui a farci così come siamo. Dalle stelle creò i nostri occhi, dal silenzio ricavò il nostro intelletto e lo soffiò dentro di noi attraverso le orecchie. Dal sole prese l'idea per creare il cibo che ci dà sostentamento e fece il mais, specchio del sole, colore che dà vita al sangue e alle nostre guance. Questa calcò è Dio e le nostre menti sono unite in lui. A questo punto Malinalli passò al suo compagno un recipiente pieno d'acqua aromatizzata con erbe e petali di fiori affinché si rinfrescasse e alleviasse il calore del corpo, poi riprese. Quetzalcoatl fu anche un uomo saggio, un sacerdote e il governatore supremo di Tollan. Poi fece un'altra pausa per versare dell'acqua sulle pietre ardenti, sviluppando un vapore ancora più caldo e penetrante, producendo un suono piacevolissimo. Ma Cortés voleva saperne di più su questa Calcuol perché pensava che quelle informazioni gli sarebbero state utili per i suoi fini personali di conquista. Quindi domandò ancora: e come governò? Durante il regno di questa Calcuol, Tollane era grande e meravigliosa. Giada, coralli e turchesi ornavano il mondo, metalli preziosi, gialli e bianchi, conchiglie e sorelle dell'udito, spirali di suono, recipienti del canto, piume di quetzal rosse e gialle coloravano la sua grandezza. C'erano cacao di molte qualità diverse e cotone di molte varietà e colori, perché in tutte le sue creazioni Quetzalcoatl era un grande artista e un procuratore d'abbondanza. Quetzalcoatl, il tolteco, colui che cerca se stesso. E poi che fine fece? Domandò ancora Cortés. A un certo punto della sua vita, Quetzalcoatl abbandonò la ricerca di se stesso in tutto ciò che esiste e cedette alla tentazione, o come diresti tu, al peccato. E così dovette fuggire. Che cosa fece? Rubò, uccise? Domandò Cortés, sempre più interessato. No, fu ingannato da uno stregone che cambiò per sempre il suo destino. Tezcatlipoca, lo stregone suo fratello, ombra della sua luce, gli mise davanti agli occhi uno specchio nero ingannatore. Quetzalcoatl si guardò in quello specchio e si vide con il viso deforme, grandi occhiaie e gli occhi sprofondati nelle orbite. Vide la maschera della sua falsa identità, vide la parte oscura di sé e si spaventò, ebbe paura del suo stesso volto. Subito il fratello gli offrì da bere del pulque, che lo ubriacò e lo sconvolse. Ubriaco com'era, chiese che gli fosse portata sua sorella. Questa Petalt, e quando l'ebbe vicina, beve ancora di più. Completamente ubriachi, i due fratelli caddero preda del desiderio e si coricarono insieme, soffocandosi di carezze, cozzando pazzamente l'uno con l'altra, toccandosi e baciandosi, finché non si addormentarono. Il mattino dopo, tornato in sé, questa calcò il piangendo, si mise in marcia verso Oriente. Proprio la direzione da cui siete arrivati voi, per poi imbarcarsi su una canoa di serpenti. Se ne andò nella terra nera e rossa del Tollan per ritrovare se stesso e incenerirsi. Il caso volle che in quel preciso momento una goccia del sudore di Cortés cadesse esattamente sul punto dove era stato morso dallo scorpione, ricordandogli l'allucinazione dei serpenti. Aveva sete, chiese a Malinalli se si poteva bere un po' d'acqua. La ragazza disse che ne avrebbe avuta quando sarebbero usciti. Manca ancora molto? No. Beh, allora finisci il tuo racconto. I loro corpi erano ormai solo sudore e purezza quando Malinalli pronunciò queste parole. Questa calcol si diede fuoco e dal suo cuore scaturì una scintilla azzurra. Poi il suo cuore e tutto il suo essere si staccarono dal fuoco. Volarono alti nel cielo e divennero la stella del mattino. Con ciò Malinalli diede per concluso il rito del Temascal e invitò Cortés a uscire da quel ventre umido. Si sentiva sollevata perché sapeva che l'acqua ripulisce da ogni cosa e ammorbidisce tutto. Se può levigare le pietre di un ruscello, cosa non è in grado di fare con le parti interne del corpo umano? L'acqua purifica e rende luminoso anche il cuore più duro. Anche se non aveva potuto pregare il dio dell'acqua, come era solita fare quando stava nel Temascal, perché Cortés l'aveva continuamente interrotta, Malinalli sentiva che in qualche modo il rituale aveva avuto effetto perché anche il capitano degli spagnoli sembrava purificato, rinato, trasformato. Aveva cambiato pelle come un serpente e la sua vecchia corteccia era rimasta nel Temascal. L'avere partecipato insieme a quella cerimonia li faceva sentire più uniti e creava tra loro una complicità nuova. Bevvero del tè di fiori con il miele in quella notte di trasformazioni, in quella notte di rivelazioni. Non avevano più voglia di parlare. Il peso della luna piena ingigantiva il silenzio, abitato solo dagli sguardi di quei due che, pur nuovamente immersi nel mondo esterno, fra piani di battaglia e intrighi, avevano imparato a dialogare e a restare in contatto con i loro pensieri in modo del tutto nuovo. La migrazione è un atto di sopravvivenza. Malinalli avrebbe voluto avere la leggerezza delle farfalle che sanno sempre migrare al momento opportuno, volare alta nel cielo, oltre le nuvole, fin dove non avrebbe più potuto udire pianti e lamenti, o vedere corpi mutilati, fiumi di sangue, o sentire l'odore della morte. Avrebbe voluto scappare prima che i suoi occhi rimanessero accecati, prima che il suo cuore si congelasse e il suo spirito perdesse il contatto con gli dèi. Decidendo di agire d'anticipo, infatti, Cortés aveva ordinato di massacrare gli abitanti di Cholula, in quella che a suo dire era una semplice manovra di autodifesa, intesa a prevenire i disordini, a non lasciarsi cogliere impreparato. Diceva che era necessario dare una lezione esemplare a quegli indigeni che eventualmente avessero covato in cuore il pensiero di aggredirlo e al tempo stesso mandare anche un chiaro messaggio a Montezuma. Radunò dunque i signori di Cholula nel patio del tempio di Quetzalcoatl con il pretesto di prendere congedo da loro e ringraziarli per le loro attenzioni. Malinalli e Aguilar gli fecero da interpreti e lui parlò davanti a 3.000 persone raccolte nel recinto sacro. Mentre parlava, i suoi soldati chiusero tutte le porte. Cortés parlava forte, stando a cavallo, e la sua voce risuonava come il tuono, come il rumore della terra quando trema. Alta sul cavallo, la sua figura era imponente. Nel Medioevo soltanto i nobili potevano andare a cavallo. Proprio per questo Cortés, che aveva origini plebee, amava tanto impartire ordini stando in sella, perché così facendo si sentiva superiore a tutti gli altri in senso sia fisico sia sociale. Cortés accusò dunque gli abitanti di Cholula di volerlo ammazzare mentre lui era venuto in pace e li diffidò dall'adorare idoli, dal commettere sodomia e da realizzare sacrifici umani. Malinalli tradusse le sue parole il più fedelmente possibile per farsi udire da tutti e alzò al massimo la voce. Parlò a nome di Malinche, il soprannome che era stato attribuito a Hernán Cortés, proprio perché se la teneva sempre accanto. Malinche significava infatti padrone di Malinalli. Malinche è molto irritato e vi domanda: avete forse intenzione di colpirlo alle spalle, come tutto ciò che è sabbioso, tempestoso, ingannevole? Volete forse abbattere su di noi i vostri scudi, colpirci con le vostre clave, quando Malinche è venuto da voi in pace? Quando lui ha pronunciato solo parole che allargano il cuore. Lui è qui per trasmetterci la parola del nostro Signore e non si aspettava certo che voi avreste cercato di ucciderlo. Lui, che tutto vede e tutto sa, non ignora che nei dintorni di Cholula ci sono dei guerrieri Mexica che aspettano solo l'ordine di attaccare. I capi dei Cholultechi ammisero ogni cosa, ma si giustificarono dicendo di aver semplicemente obbedito agli ordini di Montezuma. Allora Cortés disse che le leggi del Regno di Spagna punivano il tradimento con la morte e quindi tutti i signori di Cholula dovevano morire. Malinalli non aveva ancora finito di tradurre queste parole che un colpo d'archibugio diede inizio alla carneficina. Per più di 2 ore gli spagnoli pugnalarono, picchiarono e uccisero tutti coloro che si trovavano all'interno del sacro recinto. Malinalli corse a rifugiarsi in un angolo e con occhi pieni di terrore vide Cortés e i suoi soldati mozzare braccia, orecchie, teste. Il rumore del metallo che tagliava muscoli e spaccava ossa, le grida e i lamenti le straziarono il cuore. Ben presto il suo bel huipil fu tutto schizzato di sangue. Il sangue impregnava i pennacchi di piume, gli abiti e i mantelli dei Cholultechi e formavano pozzanghere sul pavimento del tempio. Mortai e archibugi seminavano strage fra la folla terrorizzata. Nessuno poté scappare, era impossibile arrampicarsi sui muri per scavalcarli. Tutte quelle persone inermi furono assassinate. Quando tutti i nobili e i capi furono morti, le porte del tempio si aprirono e Malinalli, terrorizzata, poté scappare. In città i 5.000 Chalcaltechi e più i 400 Cempoalensi alleati di Cortés saccheggiavano casa per casa. Malinalli li schivò e in preda al panico continuò a correre fino al fiume. Era impressionante con quanto odio uomini, donne e bambini venivano assassinati. Il tempio di Huitzilopochtli, nume tutelare dei Mexica, bruciava. L'orgia di assassinio, saccheggio e sangue durò 2 giorni, poi Cortés ristabilì l'ordine. In totale 6.000 cittadini di Cholula avevano perso la vita. Infine Cortés ordinò ai pochi sacerdoti rimasti di togliere tutti gli idoli dei templi, di lavare via il sangue dai pavimenti e dalle pareti e di mettere sugli altari croci e immagini della Vergine Maria. Secondo il capitano, quell'orrore era stato un bene perché aveva fatto capire agli indigeni che i loro idoli erano falsi e menzogneri e non potevano proteggerli adeguatamente, già che in realtà erano più demoni che dei. Per lui la conquista era uno scontro tra il bene e il male, tra il vero Dio e i falsi dei, tra esseri superiori e inferiori. Si sentiva investito della sacra missione di riscattare gli indigeni dalla loro ignoranza, che a suo parere li spingeva a compiere molte azioni selvagge e incivili. Quelle migliaia di cadaveri smembrati senza vita, senza più scopo, si impadronirono dell'anima di Malinalli. Il suo spirito non le apparteneva più, le era stato rubato durante la battaglia da tutti quei corpi inerti, indifesi, impossibili da salvare. Nessuno, né gli spagnoli né gli indigeni, le avevano fatto del male. Il suo corpo non aveva riportato ferite, lei non era stata colpita, eppure era morta. E sulle spalle sentiva il peso di centinaia di altri uomini. I suoi occhi erano senza vita, non brillavano più, la sua respirazione era ridotta a un filo, i battiti del cuore erano deboli. Rimase a lungo immobile, senza muovere un muscolo. Si sentiva morire di freddo, ma non voleva cercare una coperta con cui riscaldarsi, perché era sicura di non poterne trovare una che non fosse sporca di sangue. Il freddo di ottobre le penetrava nelle ossa, le gelava l'anima. Nata sulla riva del mare, in un luogo benedetto dal calore del sole, Malinalli soffriva per quel cambiamento di temperatura, ma soprattutto per il ricordo delle immagini che i suoi occhi avevano dovuto vedere. Un rumore di passi la mise in allerta, facendola sussultare. In fondo al cuore si aspettava ancora il peggio. Si voltò per vedere chi fosse e riconobbe il cavallo di Cortés, solo, senza il padrone, che andava ad abbeverarsi al fiume. Anche lui sembrava spaventato e aveva le zampe tutte insanguinate. Malinalli gli si avvicinò e cercò di pulirlo. Il cavallo tranquillo la lasciò fare. Quando ebbe finito, Malinalli gli accarezzò la testa, si specchiò nei suoi grandi occhi mansueti e vi riconobbe la sua stessa paura. Il cavallo parve fare altrettanto con lei, la guardava in modo strano. Lui e Malinalli stentavano a riconoscersi, non erano più quelli di prima. Gli avvenimenti di quegli ultimi giorni li avevano cambiati. Malinalli non era più la donna bambina felice di essere battezzata, che il cavallo aveva conosciuto solo qualche mese prima. L'animale che aveva assistito alla sua rinascita era testimone della sua morte spirituale. Malinalli non sarebbe stata mai più la stessa, era diventata un'altra persona. E un altro era il fiume, un'altra Cholula, perfino Cortés era un altro. Ripensando alle mani di quell'uomo, fu scossa da un brivido. Aveva visto la crudeltà impadronirsi delle mani che soltanto il giorno prima l'avevano accarezzata e che si erano dimostrate capaci di uccidere senza pietà. Niente era più come era stato ed era impossibile tornare indietro. Cosa sarebbe accaduto ora in risposta all'orribile assassinio di massa, del quale anche lei si sentiva almeno in parte responsabile? Cercava di discolparsi, pensando che non aveva riferito a nessuno la conversazione con la Choculteca, quella che le aveva proposto di fuggire insieme a lei e a suo figlio prima che gli spagnoli fossero annientati, che Cortés aveva scoperto tutto da solo per altre vie. Erano stati i suoi alleati, mentre ancora lei rifletteva sul da farsi, a informarlo che strade e sentieri celavano pericolose trappole, con il fondo irto di legni appuntiti destinati a far cadere i cavalli e a ucciderli. Che alcune vie della città erano state chiuse con barricate, che sulle terrazze si stavano accumulando grandi mucchi di pietre, che donne e bambine avevano lasciato Cholula per mettersi al sicuro, lontano. I Chacaltechi, inoltre, gli avevano detto che ben poco lontano dalla città, fuori vista, c'era una guarnigione di 15-20.000 guerrieri di Montezuma, circostanza che non era stato possibile verificare. L'unica cosa certa era che spagnoli e ciacaltechi in quei 2 soli giorni avevano ammazzato più di 6.000 indigeni e lei poteva essere la prossima. Ormai non si sentiva più al sicuro con nessuno. Se in un primo momento era stata felice di essere nominata la lingua, aveva creduto che un giorno, in cambio del suo lavoro di interprete, avrebbe ottenuto la libertà, ormai sapeva che in quel senso non c'erano garanzie. Che tipo di libertà poteva essere la sua? Come faceva a credere che la sua vita sarebbe stata rispettata da quegli uomini che non rispettavano niente? Che cosa aveva da offrirle un uomo capace di uccidere con tanta crudeltà? Che Dio era quello che lasciava massacrare in suo nome tanti innocenti? Le sembrava di non capire più niente, di non sapere più quale fosse il fine di ogni cosa. Era stata educata per servire. In quanto schiava non aveva mai fatto altro che servire i suoi padroni e sapeva farlo bene, con efficienza. Anche come interprete aveva semplicemente obbedito agli ordini dei padroni spagnoli, ai quali l'avevano regalata e che doveva servire. Per un certo tempo aveva creduto che se avesse lavorato bene gli stranieri l'avrebbero aiutata non solo a ottenere la libertà, ma anche a conquistare migliori condizioni di vita. Aveva creduto davvero che il Dio degli spagnoli fosse il vero Dio, cioè una nuova manifestazione di Quetzalcoatl. Tornato per dire chiaramente a tutti che non era affatto necessario uccidere gli uomini sulla pietra sacrificale. Ma ora che aveva visto gli spagnoli in azione, si sentiva disperata, delusa, abbandonata da tutti e soprattutto terrorizzata. Le si imponeva una domanda: chi doveva servire ora e soprattutto perché? Che senso aveva continuare a vivere in un mondo che non aveva più senso e che cos'altro sarebbe successo in futuro? Non le restava nemmeno la consolazione di rifugiarsi presso i suoi dei, perché essere sincera doveva ammettere che questa Calcol non aveva fatto assolutamente niente per difendere la sua gente. Come tutti gli abitanti di Cholula, anche lei aveva pensato fino all'ultimo momento che questo alcol si sarebbe manifestato in qualche modo, per esempio inondando la città o con qualche altro fenomeno che avrebbe salvato la vita ai suoi fedeli. E invece niente. In nessun momento della carneficina Malinalev aveva percepito la sua presenza, si sentiva del tutto indifesa. All'improvviso tutte le paure, tutti i sensi di colpa sembravano essersi sollevati in armi dentro il suo cuore, per essere riconosciuti, valorizzati e ascoltati. L'eterna paura dell'abbandono, della perdita, di essere una bambina indesiderata, che non aveva importanza per nessuno e che nessuno teneva in considerazione, riemerse la sua coscienza più forte che mai. Era rinata, aveva un nuovo nome, una nuova identità, nuovi dei, ma per qualche incomprensibile ragione era costretta a subire un castigo tremendo. Sentiva di meritarlo appieno, quel castigo. L'aveva sentito sempre. Inspiegabilmente, ogni volta che le avevano regalata, aveva sentito che ciò era dovuto al fatto che in lei c'era qualcosa di male, forse soltanto perché era nata donna o per qualche altra ragione. Fatto sta che aveva sempre vissuto così, come in attesa di un terribile castigo. Non capiva più niente, la sua testa non ce la faceva ad assimilare tutti quei cambiamenti, tante parole, tanti concetti nuovi. A sembrarle incomprensibile era soprattutto l'idea del demonio, come incarnazione del male. Non capiva come il diavolo potesse essere un angelo caduto, cacciato via dalla divina bontà del Padre Celeste e condannato a vivere per sempre nell'oscurità, che al tempo stesso aveva il potere di mandare in rovina tutta la creazione. Quella contraddizione non le era affatto chiara. Se aveva quel potere, perché non lo utilizzava? Ma se per realizzare i suoi malvagi disegni aveva bisogno che gli uomini lo lasciassero penetrare nel loro cuore, allora non era poi così potente. Che razza di demone era quello? E d'altra parte, com'era possibile che il vero Dio fosse stato così stupido da creare una forza capace di distruggerlo? Possibile che fosse tanto debole da esporsi continuamente al rischio di essere dimenticato dai suoi figli, sedotti dal peccato? No, decisamente le credenze degli spagnoli sulla divinità e sul male le erano incomprensibili. Per lei il mondo spirituale era strettamente legato a quello della natura del cosmo, ai loro ritmi, al movimento degli astri in cielo. Nascendo a Teotihuacan, il sole e la luna avevano riscattato gli uomini dalle tenebre. Dai suoi antenati aveva appreso che la luce degli astri non è solo fisica, ma anche spirituale, e che il loro transito attraverso la volta celeste serve a unificare nella mente degli uomini il ciclo del tempo e quello dello spazio. Come in un gioco di specchi, la contemplazione del cielo diventa allora introspezione e strumento di trasformazione di sé e del mondo. Anno dopo anno, ciclo dopo ciclo, tessendo il tempo, intrecciandolo come una storia di serpenti, l'uomo entra a far parte della trama della vita e per salire in cielo non è affatto necessario morire. Basta essere intimamente legati alla terra e restare sempre in contatto con gli dèi, perché chi contempla l'ordinato procedere del cielo si trasforma in sole, diventa Dio. Malinalli non capiva che Dio fosse un Dio che non si può contemplare nel cielo con gli occhi del corpo come il sole, un Dio con cui è impossibile fondersi, che sta fuori dal tempo in un altro cielo che si apre solo perché è libero dal peccato. Il Dio degli spagnoli era un Dio castigatore, un Dio distruttore, che le faceva paura. Per nessuna ragione al mondo Malinalli avrebbe voluto irritare quel Dio tremendo, ma non sapeva come fare. Si sentiva come un pugno di polvere gettato al vento, come una piuma senza Quetzal, come una pannocchia senza checchi di mais, senza scopo, senza desideri, senza vita. Perché era nata? Per aiutare gli spagnoli a distruggere il suo mondo, le sue città, le sue credenze, i suoi dèi. Malinalli non voleva rassegnarsi, doveva pure esserci un'altra ragione, aveva bisogno di dare un nuovo senso alla sua vita, di guardare il mondo con occhi nuovi. Doveva smettere di vedere il passato in ogni ruscello, in ogni pietra, in ogni pianta, in ogni huipil, in ogni pezzo di tortilla che portava alla bocca. Doveva sforzarsi di vedere le cose come le vedevano gli spagnoli. Ne andava della sua vita, perché ormai aveva capito che fino ad allora lei e loro non avevano mai parlato della stessa cosa, non avevano mai visto né desiderato la stessa cosa. Il cambiamento che auspicava per la sua gente si limitava alla proibizione dei sacrifici umani, tutto il resto doveva restare come sempre, soprattutto il culto di Quetzalcoatl. Purtroppo però si rendeva conto che a nessuno importava cosa lei desiderasse o avesse desiderato in passato, nessuno si curava del suo parere. E quanto a lei, non voleva nemmeno tornare in città per vedere cosa fosse rimasto della grandiosa Cholula. Rimase a lungo accanto al cavallo, in silenzio. Nessuno dei due aveva voglia di fare niente. Alcune farfalle volarono verso di loro, erano sporche di sangue. Malinalli pianse a secco perché i suoi occhi non avevano più lacrime. Avrebbe voluto fuggire, non vedere, non sentire, non sapere più nulla. La sua mente prese il volo e fuori dal tempo andò incontro alla nonna, tornando indietro al giorno in cui l'aveva accompagnata a vedere il santuario delle farfalle monarca. Era stata una giornata molto felice per lei. Era primavera e Malinalli, tutta vestita di bianco, aveva una collana di piume e braccialetti di giada ai polsi e alle caviglie. Era molto eccitata perché la nonna aveva detto che le farfalle erano tornate e che loro due sarebbero andate insieme a vederle. Lei non capiva perché ogni anno le farfalle dovessero andare via per poi ritornare di nuovo e incuriosita aveva domandato alla nonna perché non restavano sempre al santuario. Così sarebbe stato possibile andare a vedere in ogni stagione. La nonna le aveva spiegato che esse, come molti uccelli, sono grandi viaggiatrici e che quella era una cosa buona perché lo spostarsi con il vento è proprio ciò che ci fa cambiare, rinnovare, diventare più forti. Per le farfalle ogni viaggio fa parte della lotta per la vita. Migrano in cerca di cibo e di un clima che permetta loro di sopravvivere ai rigori dell'inverno, altrimenti morirebbero. È così che le farfalle compiono la loro promessa di vita. La nonna le aveva spiegato ancora che ognuno di noi nel suo corpo ha una farfalla viaggiatrice. È l'osso pelvico, che ha proprio la forma di una farfalla. Quando il fiore si apre, arriva la farfalla, e quando arriva la farfalla, si apre il fiore, aveva detto. Ciò significa che l'energia generata dalla farfalla in certi momenti si stacca dalla sua fonte e viaggia verso l'alto, lungo le ossa della colonna vertebrale fino a raggiungere il cranio, le cui ossa curve rappresentano la volta celeste. Un viaggio che ogni volta ripercorre quello di Quetzalcoatl quando se ne andò lontano per incenerirsi e trasformarsi nella stella del mattino. Chi viaggia così diventa Dio. Per la nonna, il ritorno delle farfalle al santuario anticipava quello di Quetzalcoatl, che un giorno o l'altro sarebbe ricomparso su quelle terre perché così aveva promesso. La piccola era entusiasta della gita, le emozionava tantissimo l'idea di vedere migliaia di farfalle tutte insieme. Ma sua madre si era opposta, dicendo che una donna così vecchia e per giunta cieca non poteva affrontare un viaggio così lungo e per giunta con una bambina di 4 anni inquieta e disobbediente come Malinalli. Questa, infatti, era l'opinione che aveva di lei. La gita, dunque, stava per essere annullata, ma la nonna aveva argomentato con fermezza ed energia che per andare nei luoghi sacri lei non aveva affatto bisogno della vista e che l'età non c'entrava per nulla perché là non esisteva la stanchezza. E aveva aggiunto che nessuno avrebbe potuto fermarla o impedirle di andare perché Malinalli doveva avere l'opportunità di ammirare l'origine della creazione della vita e il suo eterno ritorno. Io non potrò morire in pace e non lascerò questo mondo se prima non avrò fatto questo viaggio insieme alla mia nipotina. Così aveva detto e alla fine, tenendosi per mano, Malinalli e la nonna si erano messe in cammino. Era il primo giorno di primavera. Dovevano camminare per 3 giorni, fermandosi per un breve riposo nei villaggi che avrebbero incontrato lungo il sentiero. Strada facendo si erano unite a un gruppo di uomini e donne che, come loro, andavano in pellegrinaggio al santuario delle farfalle, dove si sarebbe celebrato il rito di iniziazione con cui ogni primavera si invocavano il vento e la pienezza degli elementi, affinché l'umanità potesse ottenere dalla terra e dal cielo le ricchezze che servivano per realizzare i suoi compiti. Nella prima parte del viaggio avevano attraversato un villaggio la cui popolazione si dedicava a intagliare la pietra, a proiettare in quel duro materiale l'immagine di dei e soli, che, come pensieri scolpiti, vi sarebbero rimasti scritti per sempre. Malinalli era rimasta affascinata al vedere come anche il materiale più duro possa essere modellato e che l'universo intero è flessibile se si ha buona volontà, e aveva domandato alla nonna se nel nostro corpo, oltre a un osso a forma di farfalla, c'è anche qualcosa di simile alla pietra. La nonna aveva risposto: pietre come queste? Proprio uguali a queste no. Ma a volte il cuore di una persona può trasformarsi in pietra. Da un lato è bene che esso sia saldo, che non si lasci commuovere da ogni cosa, ma non deve essere troppo duro, perché allora gli ci vorrà più tempo per capire la verità e per infiammarsi d'amore. Quella notte nonna e nipote avevano dormito al villaggio dei tagliatori di pietre, ma Linali aveva raccolto sassi di ogni forma e dimensione e li aveva messi via per portarli con sé. Il giorno dopo, lungo il sentiero, avevano trovato una conchiglia fossile. Che cos'è? Aveva domandato alla bambina mettendole in mano alla nonna, e la vecchia, palpandola, aveva risposto subito, quasi avesse potuto vederla: è un ricordo di pietra. L'hanno fatto gli uomini del villaggio? No, aveva risposto la nonna ridendo. Questo l'ha fatto la madre natura, è opera sua. Ma Linalli aveva messo anche la conchiglia nel suo fagotto e le due avevano ripreso il cammino. Ma la piccola, dovendo portare un bagaglio tanto pesante, ben presto si era stancata di camminare e aveva detto alla nonna che non poteva più proseguire perché le facevano male le ginocchia e i piedi. Fingendo di non sentirla, la nonna aveva tirato dritto senza fermarsi e non si era lasciata impietosire dai suoi lamenti. Allora Malinalli, temendo di vederla sparire per sempre, si era messa a correre per raggiungerla e mentre le camminava accanto aveva detto: desidero moltissimo vedere le farfalle, ma perché bisogna camminare tanto? Il tuo compito è camminare, aveva risposto la nonna. Un corpo immobile si limita, mentre un corpo in movimento si espande, diventa parte del tutto, ma bisogna saper viaggiare leggeri, senza carichi pesanti. Camminare ci riempie di energia e ci trasforma così da imparare a vedere il segreto delle cose. Camminando diventiamo anche noi delle farfalle, capaci di librarsi in alto e di vedere il mondo come è in realtà, è la vita, è il nostro corpo. Camminare è l'eternità della coscienza, è la comprensione di tutte le cose, è il Dio che è dentro di noi. Ma se preferisci puoi sederti qui e trasformarti in una pietra. Subito la bambina aveva tolto dal suo fagotto tutte le pietre che aveva raccolto e prendendo la nonna per mano aveva ripreso il cammino insieme a lei. Malinalli non si era più lamentata. Poi, poco prima di arrivare a destinazione, lei e la nonna si erano fermate a ripararsi dal sole di mezzogiorno in una grotta con l'eco. La bambina aveva ascoltato, stupita, l'eco rimandare indietro le sue parole. La nonna le aveva spiegato che proprio per quello era così importante onorare la parola, perché tutti i suoni che mettiamo vagano sì per l'aria, ma alla fine tornano sempre a noi. Se vogliamo che alle nostre orecchie risuonino parole giuste, non dobbiamo far altro che pronunciarle noi stessi. Dopo 3 giorni di cammino erano arrivati al santuario della farfalla monarca. C'era una folla immensa, i pellegrini venivano da molte religioni diverse, parlavano dialetti diversi, avevano usi e costumi diversi, ma erano uniti dal sacro rito della presenza delle farfalle, che con il loro volo e le loro forme unite scrivevano in aria codici sacri, messaggi degli dèi e canti silenziosi che solo l'anima può udire. Vedere migliaia e migliaia di farfalle che volavano tutte assieme intorno a un albero gigantesco, diffondendo nell'aria una luce dorata, era davvero meraviglioso. Emozionata, Malinalli aveva domandato: perché queste farfalle abitano qui tutte insieme? Stanno insieme per unire ciò che è lontano, come il freddo e il caldo, e affinché noi possiamo leggere ciò che le loro forme disegnano nell'aria. Cerca di imparare la forma delle farfalle, i loro movimenti, i suoni che emettono. Concentrati su di loro. La piccola, che pure aveva soltanto 4 anni, era caduta allora in una sorta di trance. Non vedeva più le farfalle, vedeva codici, dipinti e manifestazioni d'arte sacra, quasi fosse stata un'inviata dagli dèi, una profetessa bambina. E la sua mente aveva capito ciò che quei codici aerei dicevano senza che nessuno glieli spiegasse. Cosa vedi? Le aveva domandato la nonna. Codici, aveva risposto. E se chiudi gli occhi li vedi ancora? Sì, bene, adesso apri gli occhi. Sono ancora lì i codici? No, questo dimostra che dobbiamo essere svegli se non vogliamo vivere nell'illusione. Si vede ciò che si vuole vedere. Ora però Malinalli desiderava solo dimenticare. Non voleva che le immagini della strada di Cholula formassero un codice nella sua mente. Voleva dimenticare anche il giorno in cui era stata nel Temazcal con Cortés e si era convinta che Quetzalcoatl avesse inumidito in lui il ricordo di Dio. Non voleva più parlare, non voleva più vedere, non le interessava nemmeno riscattare la sua libertà, non a quel prezzo, non attraverso la morte di tanti innocenti, di tanti bambini, di tante donne. Che dal suo ventre uscissero piuttosto dei serpenti, che la avvolgessero con le sue spire, che le strozzassero il collo, che le togliessero il respiro, che la mutassero in nulla, in una parola, nell'umidità della sua lingua, simbolo, glifo, pietra.